6. Ascolta e controlla. 1. Porterai i libri a Giorgio? Sì, glieli porterò stasera. 2. Mi consigli un buon libro? Certo, te lo consiglio volentieri. 3. Spiegherai la situazione ai tuoi colleghi? No, non gliela spiegherò. Ci conosciamo da poco. 4. Mi spieghi quale strada devo fare? Sì, te la indico sulla mappa. 5. Ci dai il tuo indirizzo email? Sì, ve lo scrivo su questo foglio. 6. Mi scrivi i nomi di tutti gli studenti? Sì, te li scrivo tutti. 7. Signor Rossi, mi invierà la relazione domani? Purtroppo no, professore. Gliela invierò fra 2 giorni. 8. Il fioraio ci consegnerà i fiori oggi pomeriggio? Sì, ce li consegnerà alle 16:30.